GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'alluvione nel Goriziano Confcommercio stima milioni e milioni di euro di danni. L'assessore regionale Bini chiede di sospendere i mutui alle attività commerciali colpite. Un evento raro, rapido e improvviso, imputabile anche ai cambiamenti climatici. L'analisi dell'ISPRA su quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Il tecnico che aveva ipotizzato di avere rotto la vertebra di Liliana Resinovic durante l'autopsia sarebbe indagato. La conferma in diretta dell'avvocato Nicodemo Gentile. Da in escandescenza al pronto soccorso dell'ospedale di Gorizia, le forze dell'ordine intervengono e scoprono che l'uomo era ricercato per aver rapinato una ragazza. Identificati dalla Guardia di Finanza di Udine 43 proprietari di immobili destinati ad affitti turistici dotati di televisori. Non erano in regola con il pagamento del canone specifico per gli esercizi pubblici. Presentati nell'ospedale del capoluogo friulano i servizi delle case di comunità di Gemona del Friuli, Udine e Cividale del Friuli, a partire dal 1 dicembre daranno risposte a problemi sanitari non urgenti. La finanziaria ha iniziato stamattina l'esame della prima commissione del Consiglio regionale con la relazione dell'assessore al bilancio Zilli. Quasi un migliaio di studenti alle prese in regione con le prove di chimica, fisica e biologia che concludono il cosiddetto semestre filtro. Chi le supera entra nella graduatoria nazionale di medicina. In corso nel Pordenonese la visita di un gruppo di operatori islandesi ad alcune strutture del Friuli Occidentale che si occupano di disabilità e sport. Presentata dalla Regione alle associazioni dei donatori la bozza del piano sangue, obiettivo aumentare l'efficienza di un sistema di volontariato virtuoso. La giustizia riparativa spiegata da due giovani direttrici che gestiscono la casa circondariale di Trieste e l'ufficio che si occupa delle misure alternative alla detenzione. Le 12.32, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Lara Zani. In apertura ancora all'alluvione nel Goriziano, il presidente di Confcommercio FVG Gianluca Madriz parla di milioni e milioni di danni a seguito del maltempo, mentre l'assessore regionale Bini chiede che nell'ordinanza venga inserita la sospensione dei mutui per le attività commerciali colpite. Sentiamo le interviste a entrambi. Allora, Presidente, siamo a una primissima stima dei danni. Come Confcommercio, cosa avete notato parlando un po' con i vostri associati nelle zone più colpite dall'alluvione? Abbiamo costruito una rete capillare con tutti i nostri colleghi che sono rimasti, ripeto, colpiti da questa tragedia. Ne nasce da subito una necessità di ripartire immediatamente, perché la resilienza che ci appartiene come mondo dell'imprenditoria vuole ripartire da subito. È vero che la situazione è grave, ci sono decine e decine di attività che in questo momento sono con le quattro frecce ferme, hanno bisogno di tutti i generi di prima necessità, quindi non solo cibo, acqua, ma soprattutto energia elettrica. Stiamo raccogliendo i primi dati, sono dati che chiaramente lasciano pensare, stiamo parlando di milioni e milioni di euro di danni. Chiaramente oggi questa è una stima approssimativa, parlando anche proprio stamane con alcuni colleghi, pur rimboccandosi le maniche, sono estremamente preoccupati per due ordini di idee: uno, la propria attività, rimetterla in funzione, farla funzionare, farla ripartire, ma soprattutto il periodo nel quale è venuto, perché siamo a ridosso circa un mese dal Natale. Cosa serve di più? Hanno bisogno di sostegno, parlo di sostegno morale, ma soprattutto di azioni concrete che sicuramente metteremo in campo insieme alla Regione. Un ultimo pensiero per Quirin. Te lo dico con il cuore infranto, è un ragazzo che noi avevamo conosciuto, a breve sarebbe entrato nel nostro mondo anche associativo, un animo unico, nobile, si è sacrificato, si è mollato per aiutare una persona anziana, un esempio per noi tutti. Assessore, quali misure appunto per le attività commerciali colpite? Riconfermo quanto ha già detto il governatore Fedriga: nella prossima stabilità lo stesso metterà a disposizione delle somme importanti. Ho chiesto che venga inserita all'interno dell'ordinanza la possibilità per le imprese colpite di sospendere il pagamento delle rate dei mutui. Capriva del Friuli, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'analisi dell'ISPRA sull'evento alluvionale è diversa: evento raro, rapido e improvviso, imputabile anche ai cambiamenti climatici. Esondati insieme il torrente Verse e lo Iudrio, con il picco di piena nelle prime ore del mattino lunedì, il livello dei due corsi d'acqua è salito in poche ore a 3,5 metri. Questo spiega l'esperta anche a causa dei sistemi arginali che hanno accelerato l'arrivo della piena alle zone abitate. Un evento raro, rapido, improvviso, intenso e persistente in una stessa area territoriale, così è stato classificato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L'evento alluvionale è accaduto nella notte tra domenica e lunedì nell'area che comprende anche la frazione diversa di Romans di Sonzo, un centro abitato stretto tra i torrenti Torre, Iudrio e Versa, suo affluente. Sia lo Iudrio che il Versa sono esondati contemporaneamente per le precipitazioni record accadute nell'arco di una decina d'ora, e spiegano dall'ISPRA, come evidenziano anche gli andamenti dei livelli registrati dagli idrometri sui due corsi d'acqua reperibili sul sito della Protezione Civile Regionale. Il picco di piena di entrambi i torrenti si è registrato tra le 6 e le 7 del mattino di lunedì. L'acqua in brevissimo tempo è salita fino a circa 3,5 metri. Gli allagamenti nell'area hanno raggiunto un'altezza in media tra 1 e 2 metri. Ciò che si è verificato corrisponde allo scenario relativo a eventi rari o estremi con tempi di ritorno superiori a 200 anni, elaborato dall'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali nell'ambito delle mappe di pericolosità e del rischio alluvioni richieste dalla direttiva europea, scenario reperibile sul sito del Ministero dell'Ambiente. Nella realtà gli argini sono stati tracimati, spiega l'ingegnere idraulico dell'ISPRA La Storia, che parla di evento raro, comunque senza precedenti, paragonabile solo all'esondazione accaduta nel 98 nella stessa area e sul quale, a suo avviso, hanno inciso non solo gli effetti dei cambiamenti climatici, ma anche e soprattutto i sistemi arginali dei due corsi d'acqua e l'assenza di connessione con le piane inondabili che avrebbero potuto tagliare l'onda di piena. La piena è stata invece veicolata rapidamente al suo massimo volume fino a valle, con le conseguenze devastanti che si sono verificate, dice l'esperta. Dalla regione, oggi competente per gli interventi sulla zona, gli esperti sottolineano tuttavia che le esondazioni a monte dello Iudrio nella zona di Vencò hanno in parte attenuato gli effetti dell'onda di piena, riducendo di fatto i volumi che hanno raggiunto l'area, così come a monte del Versa l'invaso di laminazione sul torrente Corno, pure affluente dello Iudrio. Secondo i tecnici della regione, considerata l'entità degli eventi possibili anche in futuro, sarà ora da valutare, oltre al consolidamento degli argini, anche la realizzazione di aree di espansione per i picchi di piena. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. È arrivato il nulla osta per i funerali del piccolo Giovanni Trame, il bambino di 9 anni ucciso dalla mamma Olena Stasio Camuggia. Quanto alla data e alle modalità della funzione verranno comunicate probabilmente, a quanto si apprende, già nella giornata di oggi dal parroco di Muggia, Don Andrea Destradi, attraverso una nota che sarà diffusa dalla parrocchia. Il caso Resinovic, il tecnico che lo scorso maggio aveva ipotizzato di avere rotto involontariamente la vertebra T2 di Liliana durante l'autopsia, sarebbe indagato dalla procura. Una vicenda sulla quale l'avvocato del fratello di Liliana, Nicodemo Gentile, aveva presentato un esposto. Ad affermarlo per via indiretta è proprio il legale di Sergio Resinovic. Gentile afferma infatti che il suo cliente, Sergio Resinovic, risulta ufficialmente persona offesa in relazione ai fatti verificatisi il 7 maggio 2025. L'addizione persona offesa sta a significare l'esistenza di un indagato e le affermazioni del tecnico risalgono proprio al 7 maggio 2025. Ma c'è un'altra novità che ancora non trova conferme ufficiali. La Cassazione avrebbe respinto la richiesta presentata dai legali dell'unico indagato per la morte di Liliana, cioè il marito Sebastiano Visintin. I suoi avvocati avevano fatto ricorso in Cassazione poiché il GIP di Trieste Mangiante aveva respinto la richiesta di una terza perizia sulla morte della donna, dal momento che la prima, firmata dal dottor Costantinides, e la seconda, da Cristina Cattaneo, giungono a conclusioni opposte. Carabinieri di Gorizia della Radiomobile sono intervenuti perché in forte stato di agitazione stava creando turbamento fra il personale e gli utenti in attesa al pronto soccorso di Gorizia. In seguito all'identificazione e ai successivi accertamenti è però emerso che sull'uomo pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Deve infatti espiare una pena di 10 mesi di reclusione per il reato di rapina commesso nei confronti di una ragazza a Torino nel 2022. L'uomo è stato quindi accompagnato alla caserma in Corso Verdi per le formalità di rito e successivamente condotto nella locale casa circondariale per l'esecuzione del provvedimento. I vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti due volte nelle prime ore di questa mattina in via delle Campanelle per due distinti incendi di automezzi. Il primo, alle 3.25 all'altezza del civico 166, ha interessato due auto. Il secondo, una ventina di minuti dopo, al civico 257, altre due auto e un furgone. Un terzo incendio è divampato poco prima delle 4.30 in un giardino condominiale di via Valmaura ed è stato spento dalla squadra del distaccamento di Muggia. Nessuno dei tre episodi ha coinvolto persone. Partendo dall'analisi degli annunci pubblicati sulle piattaforme di intermediazione turistica, hanno individuato situazioni di potenziale evasione del canone speciale RAI fra i gestori di servizi di affitto breve. Alla fine sono stati 43 i casi accertati di persone fisiche e giuridiche proprietarie di immobili destinati alla locazione turistica con tanto di apposito codice identificativo numerico che mettevano a disposizione della clientela apparecchi televisivi ma non erano in regola con il pagamento del canone RAI specifico per gli esercizi pubblici. È il risultato di un'attività di controllo eseguita dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, che ha permesso di giungere all'accertamento di irregolarità nella quasi totalità dei casi esaminati. In particolare, i militari della Guardia di Finanza di Tarvisio hanno svolto una preventiva e approfondita attività di intelligence per poi confrontare le informazioni contenute nelle banche dati in uso al corpo, le notizie apprese open source e i sopralluoghi effettuati nel comprensorio turistico del Tarvisiano. Il contesto che ha consentito di disvelare posizioni fiscali del tutto ignote al fisco nello specifico settore è ora al vaglio degli uffici RAI per gli sviluppi di competenza. La pagina del meteo, il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 11 gradi, Udine Gorizia 8, Pordenone 7, Tolmezzo 3, Piancavallo 2, Forni di Sopra 1, Tarvisio e Sappada meno 1, Monte Zoncolan meno 2, Monte Lussari meno 3, Grado 9,5, Lignano 8,5. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi pomeriggio. Cielo in prevalenza nuvoloso con possibili piogge sparse in genere deboli o al più moderate sulle zone orientali. Quota neve a partire da 700 metri. Domani cielo in prevalenza coperto con precipitazioni da deboli a moderate, più probabili di notte e al mattino. Quota neve in calo fino a 500 metri sulla costa e sulle zone orientali, soffierà bora sostenuta, anche forte a Trieste. Questa mattina in un padiglione dell'ospedale di Udine sono stati presentati i servizi delle case delle comunità di Gemona, del Friuli, Udine e Cividale del Friuli. Medici, infermieri, riabilitatori, assistenti sociali, psicologi, personale amministrativo daranno risposte ai bisogni sanitari non urgenti, a quelli sociosanitari e alle richieste per i servizi amministrativi. Le prime tre case della comunità dell'azienda sanitaria Friuli Centrale a Gemona, Udine e Cividale sono pronte ad aprire le loro porte il prossimo 1° dicembre. In tutto saranno 10 le principali in Friuli, alle quali si affiancheranno altre 4 periferiche, cosiddette SPOC. I servizi previsti nelle case della comunità HUB, quelli dell'assistenza domiciliare, un infermiere di comunità, ambulatorio cure primarie con un medico e un infermiere presenti nei giorni feriali e festivi di giorno e di notte, punto prelievi, ambulatorio delle cronicità, CUP e ufficio assistenza protesica. Il punto unico di accesso per le prime informazioni e indicazioni sarà aperto per 4 giorni dalle 10 alle 13 e in una giornata dalle 14 alle 17. Denis Caporale è il direttore generale di ASU-FC. Partiamo con 3 case della comunità, in questo momento stiamo finendo naturalmente anche le altre, però i servizi partiranno col 1° dicembre, saranno quelle della casa comunità di Gemona, di Udine e di Cividale del Friuli. Quali saranno i servizi che metteranno a disposizione? Ho sentito tanti intervenire su questo, non è assolutamente una scatola vuota, i servizi saranno quelli sanitari, alcuni già presenti in realtà, ma c'erano anche servizi nuovi che dovranno essere attualmente condivisi anche con la parte sociale, quindi sono servizi territoriali e che daranno sicuramente una risposta in più ai nostri cittadini. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. In Consiglio regionale è iniziato l'esame in commissione della finanziaria 2026. Alle 10 l'assessore al bilancio Ziglia ha iniziato a illustrare la manovra alla prima commissione. Più tardi, alle 14.30, il DDL approderà nella 6ª commissione. L'assessore Zilli ha presentato alla prima commissione integrata i dettagli della legge di stabilità 2026, che può contare su 275 milioni in più rispetto all'anno scorso, arrivando così a complessivi 6 miliardi e mezzo. Le maggiori risorse che sono frutto delle maggiori entrate tributarie. Una manovra espansiva, ha detto Zilli, che destina oltre il 60% delle risorse manovrabili alla sanità, che quindi beneficerà di 155 milioni in più rispetto all'anno scorso, risorse che saranno disponibili dal 1 gennaio e che consentono così alle aziende sanitarie una programmazione più agevole. Una scelta apprezzata anche dal PD e dai consiglieri del Patto per l'Autonomia, che sottolineano una decrescita del PIL di cui bisognerà tener conto. Sulla discussione dei singoli capitoli e emendamenti le opposizioni rimandano comunque alle successive commissioni. Nel prosieguo dell'illustrazione Zilli ha specificato che il sociale con il fondo disabilità beneficerà di 18 milioni in più rispetto all'anno scorso per le politiche alla famiglia, saranno a disposizione 14 milioni in più. L'assessore ha sottolineato che questo è un comparto che dal 2018 è stato potenziato fortemente. La viabilità tramite l'EDR avrà 30 milioni in più di risorse e 6 milioni e 600 mila euro per l'edilizia scolastica. A bilancio ci sono poi 12 milioni per il dissesto idrogeologico. Si tratta di risorse destinate a progetti per la mitigazione e prevenzione dei rischi già progettati. Per la ripartenza invece delle comunità di Cormons e Versa, l'assessore Zilli ha specificato che la Giunta sta preparando delle misure che saranno definite a conto dei danni fatti, considerando anche il sostegno che arriverà da Roma. In più ci sono le risorse della Protezione Civile per far fronte all'emergenza vera e propria. Il consigliere Buglian a tal proposito ha fatto un appello all'Aula affinché sulle misure che saranno attivate e discusse ci sia la maggior condivisione possibile. In questo momento l'Aula si è collegata con il CAL. Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Questa mattina per quasi 1000 giovani si tiene nelle università di Udine e Trieste la prima sessione degli esami del semestre filtro per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina, chirurgia e odontoiatria nell'ambito della nuova modalità di accesso nazionale che ha sostituito il tradizionale test di ammissione unico. La prova si svolge in contemporanea in tutte le università italiane e contribuirà alla formazione di una graduatoria nazionale unica con criteri di valutazione standardizzati. Le prove riguardano chimica, fisica e biologia. 964 gli studenti impegnati in Friuli Venezia Giulia. A Trieste 597 candidati su 647 iscritti hanno raggiunto i requisiti di frequenza previsti e hanno avuto accesso alla prova, 367 quelli impegnati all'Università di Udine. È stata presentata oggi alle associazioni dei donatori la bozza del piano sangue 2026-2028 su cui la Regione sta lavorando. Prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta, il testo sarà sottoposto a un'ulteriore verifica interna e verrà successivamente trasmesso alle associazioni per raccogliere le osservazioni. L'obiettivo del documento, ha spiegato l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, è quello di continuare ad aumentare l'efficienza di un sistema di volontariato virtuoso, fotografando il modello organizzativo attuale e individuando le possibili aree di miglioramento. In particolare Riccardi ha rilevato la necessità di avviare completamente il sistema informatico gestionale, utile anche a ottimizzare l'impiego del personale sanitario e di ridurre ulteriormente la percentuale delle unità di sangue scartate. L'incontro è stato anche l'occasione per presentare i dati sulla raccolta sangue, plasma e cellule staminali nei primi 9 mesi del 2025. In Friuli Venezia Giulia sono state raccolte oltre 41.500 unità di sangue intero e sono state compiute oltre 33.700 trasfusioni, dati in linea con lo stesso periodo del 2024. Le unità inviate fuori regione superano di gran lunga la quantità programmata, così come le donazioni di plasma nei centri trasfusionali e tramite le autoemoteche. La nostra regione è inoltre la terza in Italia per indice di reclutamento dei donatori e l'ottava con la minore percentuale di unità eliminate per scadenza nell'estate del 2025. Nel Pordenonese è in corso in questi giorni la visita di un gruppo di operatori islandesi ad alcune strutture del Friuli Occidentale che si occupano di disabilità e sport. Un gruppo di 9 operatrici e operatori giovanili islandesi sono in visita studio in Friuli Occidentale nell'ambito di un progetto europeo guidato dalla Fondazione ANFAS Giulio Locatelli con l'obiettivo di scambiare buone pratiche nei servizi rivolti ai giovani con disabilità, con particolare attenzione alle attività sportive e ricreative. Li abbiamo incontrati all'unità educativa territoriale rugby di Pordenone, dove si pratica sport inclusivo. Anna De Vita è la coordinatrice dei progetti internazionali di volontariato della Fondazione ANFAS. Empowering Youth Workers è una visita studio finanziata dalla Unione Europea che consente lo scambio di buone prassi tra operatori giovanili nel settore della disabilità provenienti dall'Islanda e invece noi che siamo quelli italiani. L'idea è quella di far conoscere e mettere in rete e a confronto le modalità con cui ognuna di queste realtà svolge le proprie attività. Le altre realtà visitate sono il progetto Spilimbergo, l'associazione Baskin, il Guado di Cordenons, Pinna Sub di San Vito, anche Noi a Cavallo di Porcia e il Piccolo Principe di Casarsa. Rosanna Valle è la responsabile del progetto per l'associazione Hit Husio di Reykjavik. L'aspetto più interessante è stato vedere persone con e senza disabilità giocare insieme, come nel baschi. Non esiste niente di simile da noi. È stata davvero un'emozione, un'esperienza da copiare. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a proposito di Pordenone c'è una notizia che è appena arrivata. Questa mattina una squadra dei vigili di Pordenone è intervenuta in un cantiere edile, in un cantiere allestito nell'ex fiera di Pordenone per il soccorso ad un operaio che si è infortunato cadendo da circa 3 metri. I vigili hanno prima provveduto ad una messa in sicurezza dell'area per poter soccorrere, operando in sinergia con il personale sanitario, l'infortunato che è stato imbarellato e trasportato all'ospedale. La realtà della giustizia riparativa, spiegata da 2 giovani direttrici che gestiscono la casa circondariale di Trieste e l'ufficio che si occupa delle misure alternative alla detenzione svolte fuori dal carcere. Il tema è stato al centro della puntata odierna di Buongiorno Regione. Sono 2 le facce della giustizia riparativa, quella che si fa all'interno del carcere e le misure alternative alla detenzione svolte fuori per il reinserimento sociale e lavorativo di chi ha scontato la pena. A gestirle a Trieste 2 giovani direttrici. Una sfida complessa ma gratificante, hanno detto, perché si tratta del loro primo incarico. Selena Marchiori, direttrice della Casa Circondariale di Trieste. Tutti i giorni comunque si lavora a stretto contatto con persone che comunque hanno delle fragilità, delle difficoltà o hanno vissuto dei contesti difficili, e questo ci consente tutti i giorni insomma di misurarci con delle opportunità nuove che dobbiamo dargli, proprio perché questa è la nostra missione. Quello di Trieste è un carcere che si trova in centro città, dove certo si è a stretto contatto con il mondo dell'associazionismo, ma allo stesso tempo è un edificio antico, inadeguato e che deve affrontare il problema del sovraffollamento. Il fatto di convivere in tante persone in spazi ridotti, questo viene amplificato con il fatto che siamo nel carcere, quindi è proprio un problema di fondo. Però la gestione per il momento è sotto controllo, nel senso che abbiamo molti molti sfoghi che offriamo appunto alle persone ristrette, tra cui corsi appunto di formazione, la scuola, attività anche di volontariato, la biblioteca. Ai percorsi di reinserimento sociale fuori dal carcere ci pensa l'UDEPE con il prezioso contributo di numerosissime associazioni. Sara Arata, direttrice dell'UDEPE Trieste. Tra i progetti che proponiamo ci sono sia i gruppi trattamentali, che quindi vengono condotti direttamente in ufficio dalle varie figure, tra assistenti sociali ed esperti psicologi e pedagogisti, sia soprattutto progetti che vengono condivisi con l'esterno e creati insieme a noi. Il più importante che abbiamo fatto finora è stata la coprogettazione, che è stata promossa proprio dal nostro ufficio e ha inserito circa un centinaio di persone in svariati ambiti, dal volontariato, ad esempio nelle biblioteche, a percorsi per uomini maltrattanti, a lavori di pubblica utilità. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Lara Zani. In regia, per la parte tecnica, Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.